Letture di Radio 24. Nel corso dei bombardamenti in Libia sono morti tra gli altri i tre nipotini di Gheddafi. Erano tre bambini, innocenti, con l'unica colpa di avere un nonno dittatore. Secondo Isabella Bossi Fedrigotti, qualcuno dovrebbe almeno chiedere scusa a queste piccole vittime collaterali. E invece niente. Pietà. Già si sapeva che era morta e stramorta, ma ormai sembra morta anche l'etica, quella forma minima che si era fin qui mantenuta, perlomeno nei paesi nostri che consideriamo civilizzati, in nome della quale, quando si commette un errore pesante e incancellabile, si chiede scusa. E anche facendolo senza provare un vero profondo dispiacere per l'accaduto, ma soltanto per una questione di apparenza, già l'etica o quel che resta dell'etica forse sarebbe salva. Invece niente. Per i tre nipotini di Gheddafi, bambinetti di pochi anni, senza nome e senza volto, morti sotto il bombardamento della casa nella quale avevano la sventura di abitare, considerati probabilmente inevitabili e secondari effetti collaterali, non una parola di rammarico è stata pronunciata da parte degli alleati in guerra con il loro nonno. Eppure civiltà vorrebbe che anche quando c'è un pesante conflitto in corso, almeno noi occidentali riuscissimo, in caso di simili, tremendi e irreparabili errori, a esprimere la nostra afflizione, magari nei confronti della mamma dei bambini, tanto più che chiedere scusa, davvero, non è mai costato nulla. Invece è passata più di una settimana e l'immagine dei tre, se mai qualcuno avesse speso un pensiero per loro, è già stata cancellata da nuove, più terribili immagini di morte. E il suono dei pianti intorno ai tre cadaverini senza nome, perché anche i cattivi piangono quando qualcuno ammazza i loro piccoli, è già stato soffocato da altri e ben più forti rumori, di rombo di elicotteri, di bombe, di fuoco e di spari. I tre infelici nipotini saranno anche stati usati come scudi umani, in un'atroce sfida di indifferenza e malvagità, ma se così è stato, difficile dire a chi va la palma per essere stato il più crudele, colui che ha esposto gli innocenti al rischio o invece colui che ha bombardato, ben conoscendolo il rischio. Bella gara, verrebbe da dire. Morta, insomma, non è soltanto la bontà, ma morto è anche il buonismo, fatto di parole alate e generose intenzioni, ipocrite e vuote quanto si vuole, ma ciò nonostante, in qualche modo, custodi di umanità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Quelle piccole vittime collaterali, qualcuno chiede almeno scusa», dal Corriere della Sera di giovedì 5 maggio, a firma di Isabella Bossi Fedrigotti. Letture di Radio 24. Due milioni di studenti sono alle prese questa settimana con le prove in Valsi. Sui test si è scatenata una vera e propria guerra, in cui si dividono anche gli istituti, tra i favorevoli e quelli che invece boicottano il test. I ragazzi delle seconde superiori partecipano per la prima volta. Alle medie e elementari il quiz è prassi. Ma quest'anno in alcune scuole la prova farà media in pagella, sarà contata come un compito in classe. Non c'è obbligo di legge che lo preveda, ma istituti come la Media Settembrini di Roma hanno deciso di sfruttare l'occasione per poter interrogare i loro ragazzi. In altre realtà, invece, è guerra ai test. Mentre il ministro Gelmini annuncia di voler portare la prova in Valsi alla maturità dal 2012, decine di collegi docenti hanno deciso di boicottarla. Il ministero ha stigmatizzato la scelta, ma non prevede l'invio di ispettori. Dovranno cimentarsi con domande di matematica e italiano poco più di un milione di ragazzini di seconda e quinta elementare, 570.000 alunni di prima media, 530.000 ragazzi delle seconde e delle superiori. E ci sono novità. Per la matematica, spiega Roberto Ricci, responsabile del Servizio Nazionale di Valutazione degli Invalsi, ci saranno più prove argomentative, come hanno sollecitato i docenti. In generale ci saranno più domande a risposta aperta, sia in matematica che italiano. Anche per schivare l'accusa di testificio più volte piombata sulle Invalsi. E saranno più lunghi i tempi per rispondere. In seconda primaria i minuti per materia passano da 30 a 45, in quinta elementare e prima media da 60 a 75. Alle superiori c'è un'ora e mezza per materia. I test partono in un clima rovente, con i Cobas che fanno campagna per boicottarli, sono un tentativo malcelato di valutare i docenti, genitori che annunciano di non portare i figli a scuola e studenti come quelli del collettivo romano Senza Tregua che si preparano a consegnare in bianco. Per noi, dicono da Senza Tregua, è illegale utilizzare i test per la valutazione interna. In licei di Roma come il Giulio Cesare, l'Orazio, l'Albertelli, consegneremo in bianco o non entreremo in classe. Le prove non sono obbligatorie. Poi c'è un problema di privacy. Si deve rispondere anche a domande su dati sensibili e le schede non sono anonime. I collegi docenti sono divisi. Ci saranno scuole che non faranno i test, come il liceo De Chirico di Roma, altre dove solo una parte delle classi aderirà, altre dove la partecipazione sarà massiccia. Alla Maffi di Roma molti insegnanti erano per il no, i favorevoli si sono opposti e vogliono andare avanti da soli. Al De Chirico i professori hanno optato per il no, dice il vicepreside, ma prima o poi ci dovremo adattare. In altre scuole la polemica è talmente superata che la novità è un'altra. Il risultato del test entra in pagella. Da noi, spiega Massimo La Rocca, preside della Media Settembrini di Roma, 300 ragazzi faranno la prova. Per dare maggiore serietà a questo evento, lo scritto in Valsi sarà utilizzato come se fosse un normale compito in classe. Noi crediamo in questo strumento. Anche alla scuola media Boccioni, ancora a Roma, spiega la preside Alessandra Sisto Paoli, la prova verrà valutata come un normale compito. Daremo un voto che farà media con gli altri. A Milano lo stesso avverrà alla scuola media Manara. Il voto sarà conteggiato, dice il preside Alfredo Scotto, perché è frutto del lavoro degli alunni. Intanto, dal rapporto presentato dalla rivista Tutto Scuola, emerge un dato preoccupante. La dispersione scolastica è in aumento dopo i primi due anni delle superiori, anche se meno al sud. I dati dicono che a fine 2007 avevano abbandonato in 95.000, il 15,4%. A fine 2010 sono stati 103.000, il 16,7%. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La guerra delle prove in Valsi di Alessandra Migliozzi dal Messaggero di lunedì 9 maggio. Sicuramente in ritardo, ma anche a Milano si comincia a parlare di Wi-Fi libero. Le prime prove sono partite in questi giorni e dovrebbero essere definitivamente completate entro l'Expo del 2015. Ma la città di Milano può e deve fare molto di più. A Milano sono partite due interessanti prove di Wi-Fi, il collegamento a internet senza fili. Queste iniziative sono ovviamente benvenute. I milanesi però sono culturalmente abituati a confrontarsi con le altre metropoli del mondo, più grandi e più piccole. Dalla città più europea d'Italia, ritengono, ci si può aspettare una più alta velocità e una maggiore ampiezza dei processi innovativi, soprattutto di quelli che riguardano le infrastrutture per la diffusione e l'accesso a internet. E questo anche alla luce dell'Expo 2015, in vista del quale le infrastrutture per la comunicazione dovrebbero essere oggetto di una più alta considerazione, almeno pari a quella di cui gode il mattone. Milano, che storicamente è la città più cablata d'Europa, potrebbe essere la prima anche nel Wi-Fi di massa. L'impostazione data dal comune con il progetto City Più, mettere intorno allo stesso tavolo i fornitori e gli utenti di tecnologia, è un buon approccio, ma bisogna forse procedere con maggior decisione, usando tutte le competenze di cui la città è ricca, senza chiusure verso nessuno. Intanto, la Regione Lombardia ha approvato il piano di coinvestimento da 95 milioni di euro con Telecom Italia per azzardare il Digital Divide. Ci si chiede adesso se e quando partirà davvero il megaprogetto da 1,2 miliardi per la diffusione della fibra ottica nelle case di 4,2 milioni di lombardi. Sulla carta si tratta del piano più importante di banda ultralarga in Italia e di uno dei più ambiziosi in Europa. Se ne parla da molto, forse da troppo tempo. L'auspicio è che in tempi brevi si passi ai fatti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo A Milano, prove tecniche di Wi-Fi, ma la città dell'Expo può fare di più, di Edoardo Segantini, dal Corriere della Sera di mercoledì 4 maggio.